Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Può essere consapevole del proprio genere, essere consapevole che le donne hanno una storia e hanno partecipato alla storia di questo mondo. Sì, è un proprio atto di libertà, basta. Lottare per avere gli stessi diritti degli uomini, anche di più forse. Ebbene, siamo arrivati, se Dio vuole, alla Befana. È l'ultimo dei giorni di queste trascinate lunghissime feste che ogni anno ci danno la scansione del tempo dell'immobilità. Da oggi si comincia a pensare cosa accadrà in un anno nuovo, in un anno che ci presenterà probabilmente delle voragini, ma anche delle vette sublimi da scalare. Detto questo, diamo un senso alla giornata di oggi. Il 6 gennaio è il giorno della Befana. È un giorno che è stato celebrato come festa, poi è stato defestizzato. Per molti anni non c'era più la Befana. Era stata abolita, probabilmente una sorta di austerità del calendario. Si era pensato che questa vecchiaccia infame fosse la prima a poter saltare. Poi improvvisamente, ma me ne sono accorto veramente qualche giorno fa, è riapparsa la Befana scritta in rosso sul calendario. Quindi la Befana ha una sua dignità. Probabilmente non vorrei rovinare la festa a nessuno, tanti garruli pargoletti, tanti bimbi minchia questa mattina saranno felici con le loro calzette piene di dolci, però mi voglio rivolgere ai papà, ma soprattutto alle mamme. Avete mai riflettuto sul senso profondo della Befana? Sì, da piccoli eravamo abituati a un'idea carezzevole, carina, tenera, di questa dolce vecchietta, orribile, con il naso bitorzoluto, si immagina puzzolente, con qualche universo infernale, verminoso, nascosto sotto la sua palandrana, che però veniva e ci riempiva le calzette di mandarini, di dolcetti, di torroncini, di finti zuccherini a forma di carbone, per noi che eravamo stati cattivi. Ma in realtà era un immaginario terrificante. Il dare un'accezione positiva, il dare un senso di tenera accoglienza nel nostro immaginario fanciullesco di una figura che in sé è spaventevole. Perché? Perché è un punto di vista orripilante, soprattutto immaginato un attimo nell'ottica di una femmina. Immaginarsi Befana. Ecco, se io dico oggi a una qualsiasi mia amica: complimenti, auguri, oggi è la tua festa, beh, ci rimane male, non può essere contenta. Non ci può essere nulla di gratificante, nulla di carezzevole, nulla di seducente nel fatto che io dica a una donna: sei una Befana. Perché l'essere Befana non corrisponde necessariamente all'iconografia tradizionale della vecchia putrefatta, non è assolutamente questo soltanto. L'essere Befana è una condizione interiore di abbandono, una condizione interiore di aver lasciato dietro le spalle ogni attesa di sorpresa nella vita. La Befana è la persona rassegnata, è la persona che si dedica ormai solamente alla cura, alla felicità, alla degna soddisfazione dei desideri dei bambini. La Befana è una persona che pensa che attorno a lei non possa esserci altro desiderio che quello dei bambini di essere gratificati con dei giocattoli, con dei doni. Ora, che questa sia una fase immancabile nella parabola umana di ogni essere umano, la befanaggine la considero una condizione dell'animo che attraversa in maniera univoca e trasversale sia maschi che femmine. Io stesso mi posso essere sentito imbefanito in fasi della mia vita anche molto più giovanili di quella corrente. L'imbefanimento è una sorta di rassegnazione. La Befana è la persona rassegnata. È la persona che, al di là di ogni connotazione esteriore, di ogni fattispecie fisiologica e di ogni stato conservativo morfologico, ha in sé la somma mestizia di dire: non servo altro più che per far contenti i bambini con dei regalini. È l'entrare in una sorta di nonnismo interiore, non che disprezzi il nonnismo, non che non pensi che esista una fase liminare nella vita di ogni essere umano in cui uno si placa, si appaga, è contento, è tranquillo e si avvia felicemente verso il tramonto pensando che la sua vita possa essere appagata di piccole cose. Ma questa condizione interiore, che può cogliere tranquillamente in ogni fase della nostra vita, può essere allontanata, può essere esorcizzata. Ognuno di noi, anche se è anziano, è abbandonato dai suoi, può comunque avere un momento di riscatto e uscire dall'imbefanimento interiore. È un guizzo, una scintilla, è un'uscita da una realtà fatale che ci vorrebbe imbefaniti. Beh, io questa mattina vorrei, se possibile, lanciare una crociata all'abbattimento dell'imbefanimento interiore. Uccidiamo la Befana, almeno il giorno in cui tutti la celebrano. Uccidere la Befana significa osservarsi dentro, vedere quanto noi siamo imbefaniti e quanto si possa fare per allontanare da noi questa sorta di spettro dell'imbefanimento che potrebbe prendere uomo o donna dai 20 anni ai 100 anni. Beh, questa mattina vorrei cogliere, se possibile, alcuni esempi lampanti di rituale fantastica e gloriosa uccisione rituale della Befana. Questa mattina darò spazio soltanto a donne che si sono sbefanizzate, ma non perché fossero befane nella loro parvenza esteriore, nella loro forma fisica, nel loro senso di percezione della realtà, no, perché a un certo punto della loro vita hanno deciso di allontanare da se stesse questa sorta di terrificante spettro di rassegnazione placida e pacata che è l'imbefanimento che coglie ogni essere umano. Non è bello perché è massacrante, perché tutti i giorni ti scontri con una realtà che è prettamente maschilista, la gente non se ne rende conto, non è consapevole, soprattutto le donne, tutti i giorni lavoro sugli stereotipi. Inizio la riflessione sullo sbefanamento con Caterina Cavina, che è una giornalista, una scrittrice. Ci siamo sentiti con lei qualche tempo fa a questi microfoni, perché aveva scritto un libro. Le ciccione lo fanno sempre meglio, Baldini e Castoldi, che era la seconda parte di un fantastico libro sulla iperlussuria dell'essere ciccione o qualcosa del genere. Caterina, buongiorno. Buongiorno. Ecco, ha a che fare con la fase necessaria dello sbefanamento, il tuo orgoglio per la ciccia, di cui abbiamo già parlato molte volte, cercando di uscire dal facile pertugio del suscitare delle parafilie, gli uomini che amano le ciccione perché nella abbondanza della femminilità loro ritrovano la loro maniera di sentirsi al centro comunque di un mondo che li accoglie, ma in realtà non è esattamente così. Molte volte la befanaggine ha un ripidissimo percorso che corre vicino all'abbandono fisico, a lasciarsi andare, a non voler più essere considerata donna. Sì, allora, io premetto che sono alta, 1,80 e peso 130 kg. Quindi non c'è scopa che ti reggerebbe. Sei d'accordo che la befanaggine è una condizione interiore che attraversa qualunque età dell'essere umano e qualunque genere? Certo, infatti io volevo dire che io appunto sono alta, 1,80 e peso 130 kg da quando avevo 13 anni più o meno. Quindi o mi sbefanavo in fretta oppure mi davo al rugby. E sentirsi comunque befane, brutte, inadeguate, è una cosa che accomuna tutti. Tutti più o meno, a prescindere dal peso, dalla taglia, dalla bellezza reale o immaginata o sognata, ci sentiamo almeno una volta o più volte nella vita inadeguati. Ti do un elemento in più. Sai, anche agli uomini accade, nessun uomo lo ammetterà. Ma noi uomini abbiamo necessità di sbefanamento almeno in 3 fasi della nostra vita. Sì. A un certo punto uno si rende conto che affida troppo di se stesso a qualcosa che non ti dà in realtà soddisfazione, felicità, centralità. Allora devi sbefanarti. E sbefanarti significa togliersi la grisaglia, significa lasciar perdere gli impegni, diventare meno seri e poi naturalmente ci si rimbefanisce. E finché non si rifà il punto nuovamente, sennò ci si trova con le bocce in mano e con gli amici coetanei, capito? Che alla fine è terrificante per ogni essere umano. No, io una cosa che mi è piaciuta molto di quello che hai detto e che sulla quale sto ragionando da qualche tempo, ma anche in quanto 41enne, non solo, non è un fatto estetico di befana o non befana, ma è proprio un fatto esistenziale. La sottile linea che differenzia l'accettazione dalla rassegnazione. Cioè tutti mi dicono, ma te come sei solare, come sei comunque bella, sensuale, bla bla bla bla, perché appunto sei così, quindi quando uno si accetta per forza diventa più tra virgolette affascinato. Guarda, comunque ci sono esseri umani. Finire questo discorso. E io a volte mi chiedo, ma mi sono accettata o mi sono rassegnata? Ma lo dico in tante fasi della vita, non so, anche l'amore romantico, a un certo punto non si cerca più la passione ma si cerca la concretezza, l'ideale, le farfalle nello stomaco, sono meglio le farfalle che bolliscono nella pentola. Vabbè, no? Queste sono chiacchiere, questa è la strada, è la strada maestra per essere befane, però scusami. Lo so, no, ma aspetta un attimo, però a volte dicono che la felicità, soprattutto adesso in tempi di crisi, sta in queste piccole cose. Lo dicono le befane, infatti lo dicono le befane. Appunto, nella befanaggine, esatto. Però dov'è che sta la vera saggezza? Nel continuare a sbefanarsi o nell'accettare che siamo befane con... Secondo me sta nella dissolutezza. La dissolutezza è la formula che uccide la befana nascente in noi. E questo è secondo me il punto di vista. Certo, questa è una cosa che per esempio io ho vissuto molto personalmente. Nel senso che quando stai come me, con la mia fisicità, a un certo punto devi rompere i tuoi limiti, i limiti che tu ti imponi e i limiti che ti impone la, tra virgolette, società. Appunto, non sei una modella, quindi devi chiuderti in casa e nasconderti. E romperli è un fatto molto personale, non è solo andare con qualcuno, appunto, qualche feticista che gli piace la chiappa grossa, insomma. Ma poi guarda, c'è una tal disperazione, oggi tutti acchiappano tutto. Esatto, uno non se ne senti gratificato per la chiappa. No, esatto, sai, quelli che io c'è dico spazio sempre, per tutti. Che confondono la parte con il tutto. Che parlano 3 ore delle tue tette e 0 del tuo cuore, ce ne sono tanti. Vabbè, il cuore non si vede, le tette si vedono. Scusa, dammi modo di spezzare una lancia nei confronti di queste persone. Le mie si vedono molto. Comunque, quello che volevo dirti è che proprio io ho dovuto proprio rompere dei miei limiti, diventare anche autodistruttiva, a volte trasgressiva e anche autodistruttiva. Però lì ho scoperto che potevo veramente fare tutto. Come ci si difende dalla befana satanata? Che è esattamente quello che noi stiamo definendo, chi va verso la dissoluzione ma continua a mantenere la stigma feroce della propria befanaggine. E non parlo di status esteriore. Oggi con la penombra e con gli artifici tecnochirurgici per chiunque c'è spazio. Ma la befanaggine rimane indissolubilmente legata anche nella persona più assatanata. Guarda, secondo me si rompe tutta la befana satanata che è in noi con la stima di sé. Cioè l'unico modo per superare lo stato di befana satanata che deve dimostrare qualcosa, che deve dimostrare che è come gli altri, che deve fare cose assurde perché lei posare come se fosse una modella di 30 kg anche se ne pesa 180, io le ho viste, quindi diventare parodie di se stesse, semplicemente tirarsela. Io sto bene in questa situazione, qualsiasi sia, una dark room o un tinello, ecco, la befana satanata è nell'armadio con la scopa. Semplicemente essere delle persone normali, informarsi, leggere, cercare di non andare dove ti dicono di andare, ma di andare da qualche parte di testa tua. Quando come madre hai una figlia e parli con tua figlia, succede quando passi il testimone da una generazione all'altra. Al lavoro hai dei collaboratori e delle collaboratrici e dai loro le stesse chance. Bene, nella operazione di sbefanamento, che mi sembra la miglior maniera per ritualizzare questa giornata che ormai ha perso la sua essenza, ma figuriamoci quanto ormai satolli di lussurie, di regalie, di facezze i nostri bambini ancora aspettano quella triste calzettina che già viene venduta, confezionata, piena di tutte le necessarie panoplie che ricordano ancora l'antico rituale della befana, fatta di mandarini, di povere cose, ancora abbia senso parlare di befana. Le befane sono quelle befanine elettroniche con gli occhi che si illuminano e fanno ce n'è una anche io, terribile, l'ho persa in uno scatolone, ogni volta che metto a posto i miei libri sento questa befana che echeggia. Ma quello che questa mattina vogliamo mettere a punto è la possibilità delle donne di sbefanarsi. Guardate che la befana può essere anche in tacco 12, può essere anche acchittatissima, può essere anche profumatissima, può essere anche circondata di uomini. La befanaggine è una sorta di segno indelebile che non ci si leva mai di dosso, ma vale anche per gli uomini. L'uomo più brillante può essere dentro di sé un imbefanito terribile. Non so come definirlo, ma mi capite, lo sapete esattamente. È quella patina di usurato che si vede addosso alle persone anche più splendide, che sono segno indelebile della befanaggine. Dania, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Io volevo dire che l'apice della mia befanaggine è stata prima di separarmi. Era un periodo bruttissimo per me, quindi ero sempre accigliata, scorbutica, antipatica, rompifalle, ero sempre pronta a aggredire. E quindi vuol dire che la colpa della tua befanaggine era tuo marito? Era il periodo, sì, anche lui, sicuramente lui, però era tutto il periodo in sé per sé che mi rendeva così. Allora, la colpa dell'essere befane, nel caso delle donne befanate, è degli uomini che le fanno sentire tali? Sì, infatti. O del matrimonio che rende befana? Tali. E ero diventata anche frigida. Invece, dopo... Ah, scusa, perché la befana frigida è determinata da uno status matrimoniale oppressivo. Può darsi, cioè, se non sei libera di testa, se non sei tranquilla. Sei sposata, come fai a essere libera di testa? Hai giurato fedeltà eterna a un uomo? Sì, libera di testa intendo dire dai problemi, cioè, se è un periodo nero, subito dopo la separazione, proprio raggiunto il massimo. Cioè, puzzavi, non ti curavi più, cose del genere? Non mi curavo più, sì, ero depressa, non mi curavo più. Poi ho iniziato invece a sbefanarmi e a uccidere, giusto, la befana che era a me, e ora sono un'altra persona. Dania, come si esce dalla befanaggine? Ti curi di più. Ecco, allora, si comincia da una sorta di cambiamento dell'aspetto esteriore. La befana si toglie i suoi vestiti. Cambiamento fisico. E al cambiamento fisico, se ti accetti meglio, se ti piaci meglio, arriva anche il cambiamento dentro di te, stai bene anche con te stessa. E adesso non sei più befana perché? Perché sono un po' meglio della befana. Va bene, sono sempre un po' di naso storto, quello non ci ho potuto fare niente. Nello sbefanamento quello è rimasto. Sì, ma ci sarà qualcuno che ti conforterà anche su questo aspetto. Sai che il nostro aspetto esteriore è solo un'ipotesi che ci facciamo noi e che ci confermano o ci smentiscono gli altri. Quindi c'è chi ti smentisce anche sul tuo naso storto. Sì, no, va bene. Vedi approvazioni magari, cioè niente, se, ma io penso non dipenda neanche dagli altri. Se stai bene con te stessa, cioè se ti piaci, se sei tranquilla, lo trasmetti anche agli altri, cioè è proprio un circolo vizioso. Vabbè, la befana è colei che non riesce a comunicare agli altri la sua soddisfazione, lo suo star bene. Invece lo sbefanamento significa una sorta di irradiamento verso il mondo di una propria particolare soddisfazione che non suscita invidia, non suscita rabbia, non suscita risentimento, ma suscita una sorta di compenetrazione generale nella soddisfazione dello sbefanato o della sbefanata. Sbefanati che siete in ascolto, avete possibilità di dare un vostro contributo a questo difficile e periglioso cammino, anche perché io in questo momento vi fornirò un'altra testimonianza di persona che mi ha detto che non si è mai sentita befana in vita sua, anzi ha una sua sorta di interiore vivacissima e pericolosissima, data appunto la sua condizione di partenza, volontà di sbefanamento preventivo. Mirta Barbetti, buongiorno. Oh Mirta, tu mi hai detto io non sono mai stata befana, non mi sono mai sentita befana. È bellissimo sentirlo dire, anche perché ognuno di noi, anche il più splendido degli esseri umani, il più fortunato, il più felice, il più iperdotato, e se è sincero con se stesso, ha delle fasi befaniche della propria vita. Tu non hai mai avuto una fase befanica? Sì, sicuramente l'ho avuta anch'io, e posso dirti che è stata quella in cui non mi sentivo femminile. Ma perché pensavo che gli altri non vedessero la mia femminilità. Invece nel momento in cui ho scoperto che non era così, da lì in poi non mi sono più sentita befana, ecco. Ma perché per te era particolarmente difficile esprimere la non befanaggine, l'oltraggio, lo sberleffo, il desiderio di rottura con ogni, anche seppur lontana, immagine di befanaggine interiore, esteriore, completamente avvolta nella propria figura, nella propria persona, nella propria considerazione che hanno gli altri di sé? Ma sai, ero convinta che vedessero più la mia disabilità e quindi la mia carrozzina, quindi mi ritenevo per questo, diciamo, una befana, invece che vedere la donna e la femminilità che potevo emanare, ecco. Perché l'idea, diciamo, che una donna che sta in carrozzina è una donna condannata a essere befana, poverina, questa, sai, con tanti problemi che ha, tutto può pensare, meno che abbia in sé un profondo e irrazionale desiderio di sbefanaggine. Esatto. Esatto, molti la pensano così. Quindi tu da quando, diciamo, hai avuto percezione del tuo prossimo, hai pensato, cioè, questi di me pensano che io debba essere la Befana, che se ne sta sulla sedia a rotelle, lì buona, tranquilla, e la sua vita la passerà magari, non so, pensando a cose eccelse, a fornire il mondo del suo pensiero profondo, senza preoccuparsi del fatto che però in realtà, anche stando sulla sedia a rotelle, io ti ho visto, hai delle mani, delle unghie assassine, curatissime, quindi da subito l'idea che una che di Befana in sé c'ha ben poco. Esatto, infatti una volta, ti ripeto, scoperta questa mia femminilità, ho cercato di curarla nei minimi dettagli, in tutto, anche, diciamo, non avendo paura di parlare, affrontare nessun argomento con gli uomini, che invece magari molte donne temono di dire i propri desideri e le proprie sensazioni. Diciamo, il culmine più clamoroso della tua sbefanaggine da ragazza sulla sedia a rotelle, in cosa può essere descritto? Nella tua attività, nel tuo modo di porti, nel tuo essere online, una presenza molto particolare, molto singolare? Come è iniziata e come ha avuto l'apoteosi la tua sbefanaggine? Io ho scoperto la mia femminilità a 22 anni. Da lì posso dirti che mi sono scatenata grazie alla rete, perché mi dava la possibilità ovviamente di farmi conoscere prima. Hai mollato gli ormeggi? Esatto, proprio mollato gli ormeggi, e quindi la rete è diventata il mio territorio di caccia, nel vero senso della parola. E come forse funziona la caccia a rete? No, tutti lo sappiamo, però spiegacelo, perché è interessante. Guarda, io conoscevo dei ragazzi e magari chattavo con più di uno contemporaneamente, e poi nel giro di un mese decidevo quale incontrare. Ma quindi avevi... mi spieghi come è accaduto la prima volta? Com'è successo? Cioè, tu dicevi alle persone la tua condizione, non è che bleffavi? Sì, no, assolutamente no. Dicevi, ecco, quindi dicevi esattamente... Nel giro di una settimana io dicevo esattamente la mia condizione. Ma l'avevi talmente sedotti ormai sulla chat, che erano presi da te, esatto, che non gliene poteva importare niente. Esatto. La prima volta praticamente è stato con un ragazzo di Roma che faceva il cuoco, che non dimenticherò mai, ed è venuto a casa mia ed è stato da me 20 giorni. È uscito di casa tua che era irriconoscibile dopo 20 giorni. No, ci siamo divertiti tantissimo. Ah, beh, vedi. E la cosa bella è che è complice mia madre, nel senso che non potendo ovviamente vivere una vita, posso dirlo, penso, in totale autonomia, diciamo. Ecco. Esatto, normale, al di fuori di casa. E mia mamma ha accettato il fatto che... Beh, vedi, però sei fortunata, è stato facile, sì, per te, sì, fuggire, sì, dalla sbefanaggine. C'è una mamma che in realtà di Befana non ha nulla, e che non ha, esatto, che è complice della figlia, anche se è in carrozzina, e sa che ha diritto comunque al suo quotidiano training sbefanatorio. Quindi, esatto, mi sembra che non c'è maniera migliore, e per questo ringrazio Mirta Barbetti, che è anche un'attività tua, vero? Sì, ho un sexy shop. E anche un negozio di abbigliamento aperto da poco. Ecco, Mirta Barbetti gestisce... come si chiama il sexy shop? Me la godo. Me la godo, ecco. Me la godo, Mirta Barbetti. Non trovo maniera migliore, visto che la mela è sempre legata alla strega, alla vecchia cattiva, alla donna infame, alla donna invidiosa. Ecco, me la godo di Mirta Barbetti. Ragazza in sedia a rotelle, totalmente sbefanata sin dalla nascita. Non trovo maniera migliore, più efficace, per far iniziare l'anno con un proposito per tutte le ascoltatrici, ma anche gli ascoltatori. Sbefanatevi finché siete in tempo, perché poi quando è troppo tardi nessuno viene più a riprendervi. A domani.